Amici di Ramtime, buonasera, puntuali come fossimo un OGM svizzero, eccoci alla nuova diretta di oltranzisti, non so più neanche io che cosa siamo, oltranzisti, genericamente maleducati, maledoranti, non capiamo più un cazzo, quindi non mi ricordo più, perciò io a questo punto agevolerei la sigla. Runtime Radio presenta... Finito la sigla. Mica possiamo fare tutta la cosa. Io devo andare tutta la sera. Poi uscirà un replay. Poi uscirà un EP. Esatto, asciuga, tu asciuga, che schifo. Poi uscirà un EP con tutte le sigle nostre. Ma scusate, facciamo una puntata solo sigla. 90 minuti di sigla live e bootleg di Marco Gualdi, che saluto, di Simone Pizzi, che saluto, che sono gli autori. Bootleg a chi? Assorbe a mamma della sigla. Adesso vado su internet e vedo che cos'è. Se non mi piace, ti vengo a cercare. Sa indo abito. Esatto. Non è difficile. Anche due lavori. Ma esatto, sì, guarda, questo poi è ancora più comodo, anche se ultimamente ho deciso di restare un po' di più a casa, mi sono già messo in regime di semi-smart working e di semi-lockdown. Vabbè, insomma, fatemi salutare in maniera un pochino più istituzionale. Simone Pizzi. Buonasera, buonasera. Due cose molto importanti questa sera. Prima di tutto, voi sapete che gli obiettivi sono elementi fondamentali per l'uomo e anche per la macchina fotografica, e tutti gli obiettivi per il miglioramento del clima sono stati falliti, quindi del decennio. Quindi ragazzi, bravi, bravi. Malgrado 4 mesi di lockdown che hanno abbassato tutti i livelli, zero. Assolutamente, abbiamo fallito gli obiettivi decennali, quindi insomma complimenti. Però ci restano quelli secolari, giusto? Non penso che ci resta quasi più niente. Vabbè, dai. Però, insomma. E invece voglio anche dire, concludo con questo, che questa sera c'è la partita, gioca il Genova, facciamo tutti il tifo per il Genova questa sera. Ah, pensavo per il Covid, con chi gioca il Genova? Nel senso, chi mette in campo? COVID. La domanda non era contro chi gioca, però vabbè, poi magari lo vediamo. Marco Gualdi, saluto anche te. Il Perù gioca, poi chi mette in campo dice che sono 12 giocatori, quindi si porteranno quelli da primavera, suppongo. Ma cioè, tutti e 12 contemporaneamente se li porta, però. E certo, tutti e 12 li porta. No, tutti e 12 in campo. No, 12 contro 11 in campo. Sono 12 contro 11. Ah, gli danno sto vantaggio. Diciamo. Ragazzi, facciamo una cosa, dai, abbiamo fatto un inizio disordinato. Datemi l'onore di presentarvi. Simone Pizzi l'abbiamo presentato, abbiamo Marco Gualdi. Ciao. Ciao. Ciao. Abbiamo Francesco Di Muro. Check. E abbiamo Carmine Puccio Console. Click. Ciao ragazzi. Ormai tutti che parlano per onomatopee, per sigle, cioè ormai siamo ridotti a questo. Eppure dai, oggi credo che abbiamo una scaletta bella pregna di stronzate, di argomenti, vero? Perché insomma sta settimana ne sono successe, ma di ogni. Ah no. Io proprio, guarda, non ho manco acceso la televisione, non ho aperto neanche le finestre addirittura, quindi. Quello lo fai male, perché per evitare il proliferare dei bacilli del Covid bisogna areggiare tanto i locali. Pare che uno dei motivi per cui ci sia questa recrudescenza del Covid è proprio il fatto che ci siamo andati di nuovo a rintanare in luoghi chiusi. Ah, interessante. Vabbè, ad areggiare credo che Simone non abbia problemi, come io, quindi. Sì, sì, sì. Ma fare il vento è un'altra, ripeto, fare il venticello è un'altra cosa, non è arieggiare, insomma. Dettagli. È sempre ragazzi, muovere aria. Quello, vabbè, quello è vero. Io volevo iniziare la puntata, se siete d'accordo con me, prima di ricominciare a parlare delle solite cose, Covid, non Covid, Trump, non Trump, vi volevo far fare l'affare della vostra vita, ragazzi, perché ho scoperto, Marco, scusami se ti rubo un po' il lavoro, ma in realtà qui non si parla di beni immobiliari, ma si parla di altro, che per la modica cifra di 1.200.000 euro si può comprare Rousseau. Non nel senso del filosofo, non il cadavere, filosofo, non il filosofo. Dovete sapere che Casaleggio ha messo in vendita, in realtà vorrebbe venderlo al Movimento 5 Stelle, la sua piattaforma Rousseau per la modica cifra di 1.200.000 euro, da cui il titolo del nostro episodio di oggi, che è 1.200.000 calci nel culo. Perché la domanda che ci poniamo è: scusate, ma è il software o sui dati che esso contiene? Secondo me è l'hardware. loro c'hanno secondo me la Casaleggio associati Pizzi, questo compito si chiama Rousseau. Pizzi, secondo me è come il famoso hard disk di Paganini. Può essere, secondo me. Che nessuno ritroverà mai. Secondo me l'hard disk di Paganini sta dentro al computer. Dentro che Rousseau. Esatto. Quindi, È stata da base di Rousseau. La reschiviazione di Rousseau la fanno col. Esatto. Forse è per quello che. Comunque ti rispondo subito. Vai, vai, scusa. No, vabbè, ti rispondo subito alla domanda, Carmine. Secondo me di questi 1200 tutte e due comprende, scusa, sia il software che i dati. 250 centesimi, quindi 2,50 euro per il software, il resto tutti i dati. Quindi è estremamente plausibile. Perché è vero che insomma era stato riscritto, non è per gli addetti ai lavori, fino a qualche tempo fa Rousseau era stato basato su una vecchia e obsoleta versione di Movable Types, Movable che altro types, non è che un CMS, per farci capire, una sottospecie di WordPress meno performante e meno mantenuto di lui, ed era quello che fondamentalmente era il motore di Rousseau. Poi a un certo punto, a furia di brutte figure, perché ovviamente era anche una versione obsoletata e non più aggiornata dalla community, hanno deciso, lo riscriviamo. Io non lo so fino a che punto poi l'hanno riscritto e se adesso è veramente un software, diciamo così, proprietario. Però insomma, dargli un valore. Queste sono domande alle quali non vogliamo dare risposta. No, anche perché non siamo un programma chissà, tecnico di runtime. Però lo pago Jomla. Esatto. Chissà che quante copie ce ne stanno in giro per. Dei dati? Sei sicuro che ce ne sia solo uno? Vabbè, quello è un discorso. Non si sa quante ne hanno fatte le cose. Ha voglia, ragazzi. No, io comunque volevo approfittare intanto per salutare. Tra l'altro, scusa, Walter, si tratta dei dati completi perché. Per aderire al Movimento 5 Stelle e poter poi partecipare a Rousseau, dovevi dare tutti i tuoi dati precisi, cioè nel senso pure il codice fiscale, quindi sono proprio dati integrali, non è che sono dati parziali. Sì, che funzionava talmente bene che io con una carta d'identità e un codice fiscale mi sono iscritto 4 volte. Sì, questa è una cosa che hanno segnalato in tantissimi. Sì, la mia. Ma perché ti sei scritto 4 volte? Adesso i tuoi dati sono per vedere se si poteva fare. E si poteva fare. Risultano comunque 4 persone diverse a tuo nome. Sì, sì. Risultano 4 Carmine Console. Sì, una cosa bisogno che hanno fatto di anche dei giornalisti. Se non erro, un giornalista di Wired ha fatto la stessa cosa. Sì. Vabbè, comunque, insomma, al di là di questo e al di là delle battute, mi fa un po' amarezza, perché è chiaro che uno degli ultimissimi paradigmi di quello che doveva essere il partito, o meglio il movimento, scusate perché si incazzano se gli chiami partito, il movimento che doveva defenestrare la vecchia politica dai palazzi, quelli che dovevano mandare in soffitta l'ideologia e così via, si stanno incartando su se stessi, stanno diventando un qualcosa di veramente assurdo. E credo che la definizione, io ho trovata quasi poetica la definizione che Marco Canestrari, un ex collaboratore del Movimento 5 Stelle, o meglio della Casaleggio Associati, ha detto: Casaleggio è un broker di poltrone. E tutta questa manfrina politica nasce dal fatto che lui non vuole in alcun modo superare alcuni dei dogmi del Movimento 5 Stelle, partiamo da quello del limite di 2 mandati, perché facendo così lui riesce sempre e comunque con una visione imprenditoriale a 10 anni di garantire di vendere sempre delle poltrone a deputati e senatori sempre nuovi, i quali continuano a versare ognuno 300 euro se non di più nelle casse di quella che è l'associazione Rousseau, di quello che è Casaleggio Associati, in cambio dell'uso di una piattaforma abbastanza, come dire, che lascia il tempo che trova. Però vabbè, ma tutto questo, i grillini, quelli basic, no? Quelli che c'hanno la versione basic, la versione alfa, sono tranquilli, cioè non gli frega un cazzo che i loro dati possono essere venduti. Secondo me non esiste più ormai, cioè secondo me si è smembrato. Allora partiamo dal presupposto che secondo me questo era il progetto di Casaleggio padre, che a Casaleggio figlio secondo me gliene frega cazzi. L'unica Casaleggio cosa ma il Casaleggio figlio secondo me non ha proprio lo spessore, nel senso non è un discorso che gli frega o non gli frega, che proprio è rispetto al padre non ha un disegno, non ha una visione, non ha nulla, ha solo ereditato un SRL. Era comunque il progetto del padre questo, cioè oggettivamente no, ma il padre ci aveva inserito l'utile e il dilettevole dentro, invece giustamente Casaleggio figlio vuole più il dilettevole che l'utile, cioè nel senso comunque vuole cercare di concretizzare, monetizzare, anche perché probabilmente loro paventano il fatto che questa struttura informatica abbia dei costi che comunque la Casaleggio non vuole più sostenere, e allora deve diventare o viene smantellato oppure diventa proprietà del Movimento 5 Stelle, no? Ma io dico, ma anche il momento di questo. Ancora con sta cazzata della democrazia diretta, cioè, pure loro, cioè, avranno. No, beh, ma non, secondo me no, nel senso che quelli che sono rimasti, perché si è fatta proprio una scrematura inevitabile e abbastanza fisiologica, quelli che sono rimasti ormai sono legati comunque a un'ideologia, soprattutto, credo, no? Non li vedo in grado di superare. Io vedo solo una grossa confusione, ragazzi. Cioè. Sì, sì. Scusate, cioè, hanno fatto la scrematura ed è rimasta la crema, però. Scusa, vai. È rimasta la ricotta. Hanno fatto la scrematura ed è rimasta la crema, però. La ricottella. Esatto, esattamente, no, ricottella. Mi permettete solo un momento, ragazzi. Più, comunque, i presupposti di partenza non ci stanno più, questo è sicuro. E quello che è rimasto è spaccato in due tra una parte dell'entità che vorrebbe diventare, comunque, istituzionalizzarsi anche come movimento politico, tra virgolette partito, e l'altra che vorrebbe disgregarsi e sparpagliarsi e andare a gridare duce duce da qualche altra parte, insomma. Questa è la mia visione, insomma. Marco, tu che cosa ne pensi? Un attimo, Marco, fammi salutare gli amici in chat, perché se no non lo faccio più. Cuciniere, Leo Vargion e Pier G, che ci stanno ascoltando dal primo minuto, e è un pochino che provo a salutarli. Ciao ragazzi e bentrovati. Vai, Marco. Che potrebbero fare con una colletta ai nostri amici ascoltatori, e potremmo fargli noi un'offerta per Rousseau, insomma, cioè, perché non ce lo compriamo noi? Ci stiamo pensando, che Walter Vannini non vuole. Se ci fosse utile per Runtime Radio, lo comprerei. L'utile lo facciamo scappare poi. Cioè, per esempio, se su Rousseau ci fosse l'opzione manda la mail a tutti che è uscito il nuovo podcast, una newsletter ce l'avranno, poi il contenuto ce lo scriviamo. In cui parliamo male di loro, ovviamente. Quello è il problema. Ma non lo so, Buccio, di qualcosa di intelligente. Proprio a me, chiedete roba intelligente, oggi in particolare. No, ragazzi, stavo leggendo un articoletto che era venuto fuori su una rivista online per amministratori di sistema su sta storia. C'era una serie di dettagli tecnici che vi risparmio, perché a sto punto chi se ne frega, però una roba intelligente ce l'ha scritta, più che altro una roba di pubblica utilità ce l'ha scritta, ed era: ma nel 1.200.000, cioè, c'è solo la piattaforma e i dati che contiene, oppure tutta la manutenzione futura che dovrà essere effettuata su sta roba? Perché a sto punto dargli un milione per quello due, si fa un contratto e poi di manutenzione, tu lo sai, no? Ma appunto, però quel software l'ha fatto lui, se è un custom, quindi lo conosce solo lui. L'inghippo è che glielo stai pagando e devi continuare a dargli soldi negli anni perché te lo manutenga. Ma la verità è che io intanto me ne assumo il controllo, dopodiché ho il tempo materiale per fare una sorta di transizione su un'altra piattaforma, perché poi parliamoci chiaro, ma veramente noi crediamo veramente che il funzionamento reale del Movimento 5 Stelle, al di là della facciata di Rousseau, si basi su quello? Secondo me no, poi è che smettendo di usarlo dovrebbero ammettere che non serve a niente. Quella è la cosa più grave per loro, capito? Dire che abbiamo sprecato e fatto, ragazzi, cose ad minchiam, cioè dando retta, allora, a un programma. Su questo posso dire che il movimento ne esce tranquillo da un certo punto di vista, perché al di là della fissazione della democrazia diretta e tutte queste cazzate qua, loro comunque dicono: ma non è che era nostro Rousseau, che l'abbiamo fatto noi, è Casaleggio che insisteva, cioè, hanno messo lì, allora noi l'abbiamo usato. Quindi poi alla fine, cioè, se dovesse sparire Rousseau, a parte che il Movimento 5 Stelle ha dei professionisti che sono in grado di fare tranquillamente finta toccare con la disinvoltura che è quello, è felissimo. Qui, insomma, alla fine dice: ma Rousseau, che proprio ha fatto i master, cosa? È morto. Rousseau cosa? What? E quindi vabbè, insomma, dai ragazzi, vabbè, dai, comunque sti cazzi, Rousseau, vabbè, era per farmi fare un affare, era un investimento, se serve lo compriamo, se serve però magari gli offriamo un po' di meno, eh. Scusa, sì, prima facciamo fare la consulenza a Vannini, se vale la pena come offerta. Ma vogliamo fare una cosa figa invece? Lo mettiamo come stretch goal su Patreon? Compriamo Rousseau per 1.200.000, compriamo Rousseau. Se arriviamo, se ci date 100 euro, compriamo. Beh, no, però dobbiamo raggiungere 1.200.000. Uno non ci vuole guadagnare, e ci posso anche stare, ma insomma, rimetterci no. Facciamo che se ci fate raggiungere 1.250.000 euro, perché 50, ma non ci so i gol così su Patreon, mica Indiegala, insomma, cioè Indiegogo, cioè tu c'hai soltanto le donazioni settimanali e mensili, e quindi poi alla fine non c'è un obiettivo a cifra, capito? Cioè tu dici, vabbè, vabbè, se noi, arriviamo a 100.000, noi, no, se arriviamo a 100.000 al mese, in un anno compriamo Russo. Ma non lo esatto. Può, cioè tu puoi dire, allora, ma quello che tu puoi mettere il gol, come gol, il gol mensile, Patreon, il gol mensile è un 10, mettiamo un dodicesimo della cifra che ci serve. Che donano 50 euro diamo questo, a quelli che donano 100 euro diamo quest'altro, sì, così ma funziona, non, no? Però per raggiungere lo stretch goal devi mettere un numero di persone, se no lo stretch goal non lo raggiungi. Tu fai la divisione tra 50 euro al mese per X utenti che ci servono per arrivare alla somma per comprare Rousseau. Se lo stretch goal si raggiunge, compriamo Rousseau, se no non lo diamo a nessuno, funziona così. E a tutti quelli che hanno comprato, che ci hanno dato 50 euro, diamo la possibilità di collegarsi a Rousseau per 10 secondi, per 10 minuti. Ok. Vai, no, continuo a spiegarvi però che non funziona così. Vabbè, ma sti cazzi come funziona? Per noi funziona così. Aspetta, cazzi, Simone, scusa. Allora, cazzi, lo stretch goal di Patreon facciamo funziona co-found, che tu dici a... O meglio, scusa, lo stretch goal presuppone che oltre a darti delle cose, cioè tipo se tu sottoscrivi l'abbonamento da 20 euro al mese, io ti do queste cose in più rispetto a quello che sottoscrive l'abbonamento a 5. Esatto. Ok, però cosa faccio per motivare? Dico, al raggiungimento di 200 Patreons da 20 euro, sblocco una cosa in più. Sì, diciamo che non è così gestibile da quel punto, e fai come sta facendo Di Pre in questo momento, no? Che lui dice che se arriva a 100.000 iscritti regala 100.000 PlayStation 5, no, 35.000, no, 35.000 perché sì sì, no, lo siamo visto in live l'altra sera io e Marco Gualdi, mi dispiace ragazzi, qualcosa di YouTube, che c'ha Twitch, che YouTube, fa? YouTube. No, no, su YouTube fa YouTube Di Pre Platinum, attenzione, un po' ce fa. Un po' c'è, un po', penso che veramente c'è penso i neuroni. Io posso dire una cosa seria: la droga fa male. Io vorrei capire perché Di Pre non ha mai fatto galera per quella storia dell'epoca di Sara Tommasi. Perché secondo me lì ne ha proprio abusato quando lei non era. Perché non ci sono state denunce. Vabbè, perché non ha denunciato nessuno. Ho capito che c'entra. Secondo me Di Pre avrebbe dovuto. Cioè, quello che io mi stupisco. Infatti, Di Pre in questo momento vive in Ungheria e in Austria, non vive in Italia, no? Perché questa è una cosa che mi deve far capire tante cose, no? E che spaccia a millanta di essere l'uomo più ricco del mondo, tra l'altro, lo sapete? Vabbè, ma che sapete. No, questo non lo sapevo, però è pacifico che fuori di testa. Quindi cioè, secondo me ci sono state tantissime altre cose di Pre che avrebbero meritato la gattabuia, insomma. Però è una di quelle persone che comunque alla fine stupido, poi stupido non era, perché si lasciava sempre quel barlume, diciamo, di salvaguardia, sì, esatto, quella via d'uscita che comunque, per esempio, l'altra sera in diretta YouTube stava insultando un tizio che ci aveva tipo 800.000 iscritti su YouTube, però storpiava il nome, cioè nel senso lo chiamava magari con la lettera diversa, capito, per il cognome, e alla fine con lui può sempre dire, oh raga, ma io mi piacevo con lui, ci stavo parlando di un personaggio inventato. Ah, no, cioè, oddio, dici, ho fatto vedere le foto, usa questi escamotage. E con lui è anche plausibile, perché i personaggi inventati ne ha visti parecchi, secondo me. No, ma lui è inventato. Lui è il primo. Lui si è inventato su se stesso, prima di tutto. Però. Comunque, ragazzi, c'era un'intervista in cui lo diceva che lui, quei fenomeni da baraccone che portava in giro, sapeva perfettamente che erano dei mostri, però lo pagavano, e lui non si è fatto scrupoli di incassare quei soldi. Sì, sì, no, che comunque, sia una persona completamente priva di scrupoli e morale, mi pare abbastanza evidente. No, mi avete fatto pensare una cosa, probabilmente a tutti noi può essere capito. Dimmi, scusa. No, volevo scusare per averti fatto pensare. No, guarda, capita così di rado in questo periodo. Vi è capitato, forse più su LinkedIn, che magari non è un social molto utilizzato rispetto agli altri, di imbattervi in un figuro chiamato Vincenzo Proto, è un'azienda che si chiama Proto Corporation? Sì, assolutamente. Sapete che è un millantatore che ha scritto un libro che si chiama Io sono l'impostore, per spiegare che il 99.9% di quello che scrive sono cazzate in mani che si è inventato? Sì, guarda, mi pare non faccio fatica a crederci. Sì. No, io il libro me l'hanno regalato qualche settimana fa in digitale, me lo sono letto di notte non riuscendo a dormire costante. È quasi agghiacciante, perché spiega come sia riuscito a crearsi un personaggio semplicemente inviando delle sottospecie di veline via email alle agenzie di stampa, millantando operazioni di borsa immobiliari che a cui non è stato mai nemmeno vicino. Cioè, tipo, lui è diventato famoso sui rotocalchi perché aveva scritto lui stesso, tipo all'Ansa, che aveva curato l'acquisto della casa sulla riva del lago di Como di non mi ricordo se era di Brad Pitt, no, se magari se era di Brad Pitt o di Clooney. E l'avevano preso sul serio e lui si è costruito una fama e una reputazione su questa cosa. Poi l'hanno beccato e se ne è uscito scrivendo un libro in cui praticamente si è autodenunciato. Però se vai su LinkedIn in Italia è pieno dei personaggi così. La cosa incredibile è che fino a che magari negli anni 60, 70, anni 80 si poteva pure capire una cosa del genere. Io mi domando come sia possibile ancora oggi, cioè, capito? E questa è la cosa che mi sconvolge. No, cioè, invece che... ancora oggi è ancora più possibile dati i mezzi a disposizione, data le modalità con cui si può comunicare, Simone, è ancora più possibile adesso, sì, in realtà. Però, cioè, voglio dire, gente che millanta cose da aver fatto senza averci curriculum o basi di niente, e comunque alla fine, cioè, oggi se vuoi lo sgami che uno che sta e poi la gente in teoria dovrebbe essere anche più smaliziata, no? Cioè, nel senso, oh ragazzi, no, cioè, no, no, proprio oggi, secondo me, Simone, sono vere entrambe le cose, perché quelli non smaliziati che non riescono a capire sono comunque un pubblico vastissimo, mentre quello che vuole in qualche modo, poi ci sono i negazionisti, quindi e c'ha, chiaro, la, cioè, c'ha lo spirito, ci vuole poco a sembrare veramente il proprietario di una corporazione, basta un dominio internet, un sito fatto in un certo modo, e quello che va a fare la ricerca estemporanea e superficiale troverà subito riscontro. Cavolo, proto della Proto Corporation, incredibile. Porca sì, però, miseria, oh, ma raga, allora è, cioè, vero, capito? Io, allora, sentiamo, cioè, quello che vuole di pure Francesco, perché sento che vuole di qualche cosa. Però dico, cioè, cazzo, non è che stiamo a parlare, dice, che cazzo ne so, IKEA, capito? Dicevo IKEA, cioè, stai a parlare di gente che non c'è un, cioè, che non esce fuori da niente. E uno si dice, a me, ma questi da dove sono usciti? Ma te la farà la domanda, no? Nel senso, da dare una risposta. Boh, vabbè, comunque, dai, Francesco, che stavi dicendo? Intanto al 33esimo, ancora 0-0, al Cibali. Il Cibali, no, non potrei aggiungere nient'altro, niente di che, semplicemente dire di nuovo che il fatto che adesso più che mai è possibile in realtà millantare qualsiasi cosa, proprio perché c'è questa infodemia su qualsiasi cosa, comunque siamo esposti a una quantità tale di informazioni e di altre cose che, quando sono, come ha detto Walter, quando è gente meno sveglia, cioè ci mette poco a crederci e a fare, perché tanto ricerche più approfondite è difficile che qualcuno le faccia, anzi se le fai, se fai delle ricerche più approfondite magari sono gente che già si è parata il culo, perché comunque ci vuole una certa qualità, una certa disposizione, un certo savoir-faire per far credere tutte queste cose. Comunque, c'è, cioè, ancora più possibile, le armi della persuasione sono affilate sull'internet di questi, però su quello che contesto io è un'altra cosa, cioè, nel senso, io intanto saluto Lizard che ci ha appena raggiunto in chat. Ciao Peppe, ciao Lizard. Io entro dentro casa di Tizio e alla signora gli dico: guardi signora, che io sono il produttore del miglior aspirapolvere del mondo, se ne parla poco perché i media sono condizionati a, guardi, faccio vedere il sito, faccio vedere il prodotto, e vendi e freghi magari una persona vendendo, fai una piccola. Ma quando c'è sta gente che si inserisce in trattative importanti senza nessun credenziale, cioè, io questa è una cosa che non riesco a, cioè, beh, Simone, siamo quasi ai furbetti del quartierino. Non so se ti ricordi come si chiama quello che stava anche con l'Arcuri. Siamo di più dei furbetti del quartierino, ma no, perché siamo anche a gente che si inserisce in trattative, cioè importanti. Io ti dico, cioè, anche cordate delle persone che pigliano e cercano di comprarsi le società di calcio e non si sa da dove escono. E cioè, Simone, ragazzi, proprio perché oggi, come dire, lo spirito critico, soprattutto, cioè, c'è in certi contesti, secondo me, c'è un tale bisogno di fare l'affare che se pensi di aver beccato quello che ti vuole dare determinati soldi, ti faccio un esempio stupido, ora la storia del Milan probabilmente è diversa, però quando stabilisci che il valore del Milan è 997 milioni di euro, un miliardo di euro, che tu dici, aspetta un attimo, ok, c'è la forza del marchio, tutto quello che vuoi, ma gli asset reali che sono dietro a questo controllore dove stanno? È normale che non è facile che trovi un investitore che sull'unghia dica, ok, va bene, ci sto, faccio un investimento, ecco un miliardo, dammi il Milan. È normale che se poi becchi la cordata di speculatori che ti fanno subodorare, che sarebbero disposti a pagare quella cifra, soprattutto se stai un pochino torto collo, magari lo spirito ti porta anche a volerci un po' cascare, no? Ah, sì, ho capito, ma raga, ma qui stiamo parlando dei meccanismi finanziari importanti. Cioè, tu non è che vai davanti a un notaio, una SPA, e dici ok, ti ho firmato, e quando è che mi fai il bonifico? Fra 3 settimane, fra 4 settimane, dico, oh, ma com'è non è arrivato il bonifico? Cioè, raga, qui, no, ma infatti di solito parlando, poi questi affari non si concludono, però ci si va vicini. Cioè, è capitato più volte. Le truffe nascono da questi meccanismi. Parma, ragazzi, è una storia scandalosa. Cioè, nel senso, lì comunque c'è, cioè, anche. Tra il comune, tra la proprietà o roba del genere, che mettono in mano così a fiducia a una cordata di gente che non esiste. I giornalisti chiedevano: regà, ma questi non esistono? No, è tutto a posto, è tutto a posto. Cioè, sì, io queste cose oggi non me le spiego. Cioè, 20 anni fa, 30 anni fa me le potevo spiegare. Vabbè, non è Totò che vende la Fontana di Trevi, però il meccanismo alla base è quello. Il meccanismo, ho capito, ma secondo me i trucchetti per essere sufficientemente raffinati da arrivarci molto vicino, chi vive di truffe di un certo tipo li conosce e li sa mettere in pratica. Sono meccanismi mentali, sono meccanismi di ingegneria sociale, sono escamotage reali. Ti faccio credere di millanto un certo tenore di vita piuttosto che una certa disponibilità. Alla fine uno che vuole per forza fare l'affare si accontenta di pochi indicatori superficiali. Mi basta, per esempio, dico una banalità, arrivo in milione da te con una Mercedes da 120.000 euro che magari ho preso in affitto per 2 ore e la controparte ci casca, capito che ti voglio dire? Vabbè, comunque ragazzi, drammatizzando un attimo, se qualcuno... Ma non è che non esistono, io dico, in un mondo dove contano le garanzie bancarie, no? Le chiacchiere, cioè, guarda, ti dico, dico l'ultima cosa, faccio solo il nome che sicuramente Carmen, sento, forse anche Walter, sento dei mostri che urlano dietro. Non provengono dalla mia stanza. Faccio solo il nome di Elizabeth Holmes e di Theranos. Madonna del Carmine, sì, Madonna mia stessa. No, qual è stata una... Vabbè, scusate, tanto per sdrammatizzare. Comunque, per la cronaca, Proto non si è mai inserito in nessuna trattativa. No, lui non voleva fare. Esatto, lui ha voluto dimostrare in un certo senso che bastava poco, ma non aveva intenti realmente negativi. Ha fatto la versione finanziaria di quello che in Our Meteor Mother si chiama il Lorenzo von Matterhorn. La mossa Kansas City. Cioè, lui si è inventato un personaggio che non esiste. Ha venduto così. No, ragazzi, il fatto della Theranos, che ogni tanto rispunta, specie in questo periodo che siamo in crisi sanitaria. Questa era una pazza che si era inventata di poter costruire un apparato domestico grande più o meno che vi vedete come un tostapane, che pungendovi il dito, quindi prendendo una goccia di sangue, vi avrebbe fatto tutte le analisi di sto mondo e dell'altro: glicemia, sali minerali, le più grandi truffe della New Economy. È stata la più grande truffa mai concepita. 9 miliardi di dollari votata. Guardate, nella Silicon Valley ogni tanto vengono fuori queste grandi startup, esatto, che vengono chiamate gergalmente unicorni. Walter, okay, la sai molto meglio di me. No, però Theranos è stata uno degli unicorni. Perché, lo sappiamo di te, perché lui è. Perché lui. Cioè, perché le no, faccio perché io, Walter, in realtà io tengo un terrore di vita basso per non farmi beccare. Esatto. Ma in realtà Elizabeth Olsen e Walter, è solo lui che ce ne siamo resi conto. Se io fossi Elizabeth Olsen mi starei sempre a toccare le tette. No, niente, scusate. No, non mi sembra sto granché. No, vabbè. No, voglio dire, nel senso, non... siamo di bocca buona, dai, ci accontentiamo. Però detto, in pratica questa l'hanno beccata soltanto perché c'era un clima d'azienda infernale e perché due ex dipendenti, di cui uno addirittura nipote di uno che ci aveva messo parecchi soldi, di un investitore di un certo livello, si è accorto che sta cosa non funzionava e che stava per finire negli ospedali. Ma che strano. E che stava per finire negli ospedali, addirittura negli ospedali militari, perché figuratevi, un apparecchio del genere per la medicina da campo è il sacro graal. Certo. L'hanno beccata e addirittura era un passo dal chiedere l'approvazione dell'FDA con una procedura molto facilitata perché c'era un interesse dietro abbastanza urgente, l'hanno beccata per puro caso ed è stata smontata per quello, perché quella stava per distribuire apparati che davano i risultati a casaccio, generatore randomico di risultati, randomico di numeri, esatto. Comunque scusate, volevo approfittare perché Leovargion dice: vorrei citare a questo proposito l'icona merda d'artista, ma quella è una provocazione, quella è ancora un altro caso. Quello è ancora un'altra cosa, secondo me. Però comunque il concetto che alla fine quello che fa l'opera non è tanto il contenuto quanto chi la fa, un pochino c'è, cioè, diciamo, questo leitmotiv anche nell'arte, cioè se io facessi passatemi il termine, una cacata e la mettessi in un barattolo, sarei uno da denuncia. Se lo fa di chi era? Di Cattelan? No, di chi era merda d'artista? Non ricordo. Merda d'artista. Oddio, mi ricordo. Certo, se lo fa un artista di fama riconosciuta, assume un valore. Se io la facessi identica a lui, e non credo di, non, cioè, credo no, di poterci Fontana, riuscire, non varrebbe nulla. Insomma, Manzoni, sì, Paolo, hai ragione. Paolo. Aspetta, mo controllo. Sì, comunque credo anch'io fosse di Manzoni. Non quello di Renzo Luci. Piero Manzoni. Vabbè, comunque, insomma, io lascerei adesso il contesto, insomma, perché non è Totò Truffa, non è che ci stiamo preparando, per quanto potrebbe essere una svolta, ragazzi. Potremmo... Tutto è partito da coso, comunque, da, da Rousseau, sì, esatto. Vorrei soltanto dire questa cosa qua, farvi notare. Però, ragazzi, insomma, potrebbe essere... Che è fatto con Jomla. Ci potremmo spacciare per un grandissimo network di broadcasting internazionale e che ne so, proviamo a comprarci comprarci Sky ci conviene, ci danno la sola, ci potremmo vendere runtime a Sky per n miliardi di dollari, perché se ci vai lì con in un periodo come questo credono, dove il podcasting inizia ad acquisire un valore, forse anche runtime potrebbe avere il suo valore. Dovremmo rivedere almeno gli assets, almeno quelli dovremmo rivedere. Non so se voi siete d'accordo, però secondo me per funzionare, quando tu ti vuoi lanciare in questo tipo di impresa, ci devi credere oltre ogni misura, devi sparare altissimo. Se ci vai con umiltà non sei nessuno, ma se vai lì veramente nei piani alti e dico ti vendo runtime radio per un miliardo di euro, magari non la vendi, però ti prendono sul serio. Se invece vai lì e ti dici senti, mi dai 10.000 euro per finanziare il progetto runtime, ti sputano in faccia. Se vai lì con la faccia tosta e dire te la vendo per un miliardo, ti prendono sul serio. Io ho questa sensazione qua. Beh, secondo me tipo in una trattativa dove uno sta a comprare, che ne so, capre e cavoli, tu ci butti dentro la montagna. Sì, ma lo metti nel libro mastro, in un veramente fai un mastrino lì tra una voce di costo e l'altra, un capitolo di spesa e l'altro, ma chi ci fa caso? Era una delle tante controllate. Masterbook, sì, comunque bisognerebbe milioni. Prima fare gli assets, come dice giustamente Waldi. Vabbè, ragazzi, gli asset. No, beh, runtime in generale ce li ha gli asset. E GM in particolare, che è un po' lacunosa, però insomma. E comunque, sempre qui dallo stadio di Verona, vi informo che si stanno a dare veramente un sacco di botte, ma proprio... Beh, diciamo che quando si abbassa leggermente la, come dire, la classe media dei calciatori, succede che finisce un pochino più come fosse in ferramenta. Di sicurezza? No, si picchiano con la mascherina? No, questo è illegale. No, è legale, ragazzi, lo fa. A proposito di distanze di sicurezza, non so se ieri è girato in tantissimi gruppi, sulle chat, sui social, eccetera, questa infografica che hanno messo durante il TG2, in cui hanno chiesto a una sessuologa le best practice per fare sesso durante l'epidemia Covid. Ora, al di là del fatto di usare la mascherina, di lavarsi, di avere massimissima cura dell'igiene personale e del luogo dove si vuole consumare l'amplesso, il punto 3 di questo elenco era mantenere le distanze di sicurezza. Nel senso, un cazzo di 40 centimetri, mi sono domandato, ma per caso era una sorta di esortazione al bucake? Perché io non riesco a capire altrimenti come capisci che materialmente, con tutta la fiducia nel maschietto medio, io non so come si può mantenere la distanza durante tanto è finito il primo tempo, 0-0. Più di qualcuno ha pensato questo tipo di soluzione, però insomma non è detto, non lo so. Magari lei secondo me è andata dei gusti personali. Reverse cowgirl, secondo me è un'esortazione al cybersex, ragazzi. E anche al Saturday. Ma da quando la Champions League è tornata a Sky? Scusate, per curiosità. Come da quando? Quando è che non ce l'hanno avuta, Simone? Simone, che ti filazio la prima volta che vedi la Champions League. No, quest'anno, la Champions League per tre anni. Per tre anni di seguito ce l'ha avuta Mediaset. Ah sì, scusami, è vero, hai ragione tu, però già l'anno scorso la cosa è stata, ricordati bene, che hanno fatto lo spesone, hanno comprato i diritti, ci sono andati talmente tanto sotto che dopo un anno hanno praticamente fatto l'accordo con Sky, non soltanto per vendergli Mediaset Premium, non sapevano più che facce, ma anche gli hanno ceduto il restante contratto in cambio della visione in prima. Allora non c'ho più bisogno del canale 5 per vedere la partita in streaming. No, dipende, su canale 5 hanno, ma l'ho appena scoperto in questo momento per la partita in chiaro del mercoledì, le altre vanno solo vabbè, su Sky. Però vabbè, ce l'ho qui su Sky, ma la vedo su Sky, insomma. Ah ok, sì certo, tra l'altro vabbè, comunque, si mormorava che potrebbe essere interessata Amazon a comprare il pacchetto di 14 o 18 partite di Champions League, quelle del mercoledì. Mi inquieta sta cosa perché non so in che maniera poi si inserisca, voglio dire, una struttura che dovrebbe comunque poi subappaltare, no, per fare un discorso. No, non è vero, guarda che negli Stati Uniti le partite chiedono soldi in più rispetto NBA. A Prime. Sì. Le partite, mi sa, del football americano molte stanno su Prime USA. Eh? Sì, però il discorso è la struttura produttiva per trasmettere una partita di calcio è imponente, perché devi avere una regia mobile con tante telecamere, devi avere, diciamo, un'infrastruttura misurata per produrre e mandare in diretta l'evento sportivo che oggi come oggi, soprattutto in Italia, Amazon non ha, dovrebbe appaltare a un fornitore esterno probabilmente, non, però insomma loro sanno farsi i loro conti, queste mega aziende certe attività si possono permettere anche di farle in perdita, se questo poi è una prospettiva per un guadagno altrove, insomma, no? Poi loro sanno fare i loro conti, noi sappiamo fare il nostro conte. Esatto, il nostro conte che ieri è tornato a fare la seconda stagione di PCM, non lo so, non mi pare. Mi aspettavo di meglio. Guarda, come ho detto oggi in chat, la prima stagione era fighissima perché era proprio senza misura, mentre invece la prima punta della seconda stagione è stata senza misure. Non so se si è captato il gioco di parole. No, spiegacela perché. Nel senso, buonasera ragazzi, è finita questa serata di OGM. Vai con la sigla. Tutti. Lo spirito di Busella ci ha pervaso. No, nel senso che fondamentalmente ieri Conte non ha applicato nessuna misura particolarmente, a mio modo di vedere, particolarmente utile. Cioè, che ha fatto? Ha detto che dopo le 6 del pomeriggio ti puoi andare a bere il caffè al bar, ma solo seduto al tavolino, al banco no, perché al banco c'è il Covid. Ha detto che non si possono più fare le sagre di paese, però si possono fare le fiere, quelle nazionali, tipo nei mega capannoni, tipo la fiera del camper, la fiera dei matrimoni, eccetera. Quindi voglio dire, anche là penalizzare soltanto il piccolo per non colpire il grande, e poi poche altre cose. Lo sport non è il piccolo, però c'è nella fiera c'è l'opportunità di mettere su una struttura di controllo in una certa maniera, la sagra no, cioè oggettivamente però la sagra magari la fai all'aperto, non la buttiamo la fiera la fai al chiuso, no. Dai, appunto, sì, no, però comunque ci sono, come dire, io ho visto quello che hanno fatto a Parma con la fiera del camper, c'erano distanziamento tra blocchi, anche dove tra cose che tu prima, una volta tutta la roba era tutta ammucchiata e la gente entrava, faceva roba del genere, invece qui c'erano comunque dei percorsi, c'era un certo tipo di struttura di sicurezza fatto in maniera tale che comunque il tutto fosse limitante, no, dal punto di vista del contagio, e che non è detto che poteva essere quella la soluzione, però invece in una sagra dei paesi dove la gente si ammucchia a mangiare fettuccine con la porchetta, insomma, le fettuccine con la porchetta, non il panino con la salsiccia, le fettuccine con la porchetta, attenzione, è il livello superiore, sì. Sopra la pizza ovviamente. Raga, io penso, in questi casi penso sempre a quell'episodio del film con Lino Banfi in cui lui doveva fare il custode di notte di questa officina, la moglie gli ha preparato il gavettino, tra virgolette gavettino, con la cena, apre questa pagnotta di grano duro enorme e dentro ci mette tutta la peperonata e tutte le fettuccine al ragù, perché dice giustamente faccio prima, chiude tutto, insomma, poi non riesce a dare neanche un morso perché arriva la zinnona di sotto che stava scappando dai molestatori, dai fratelli, è vero, dai fratelli, e il film va avanti, però quella scena è cultura cinematografica, porca miseria ragazzi, de sé proprio. Ma io mi ricordo che quando d'estate, insomma, quando c'era ancora mia madre, facevamo queste grosse cene di Ferragosto, dove si facevano sia i cappelletti in brodo che i fettuccini a ragù, no? E quel poco che rimaneva, c'era un mio zio che prendeva i fettuccini a ragù e buttava dentro i cappelletti in brodo e si mangiava tutto insieme. Mi ripeti un secondo, tu hai detto queste a Ferragosto i cappelletti in brodo? Sì, sì, sì. Pizzi, cioè, famiglia dei pizzi. Io a Ferragosto facevo pure la faciolata messicana. Lui a Ferragosto si mangia la zuppa piccante. Esatto. Ma la faciolata messicana quasi quasi ci posso anche sta, anche perché non c'è cosa più buona di mangiare la pasta e fagioli fredda la mattina dopo a colazione. Però il cappelletto in brodo mi dà proprio mentre caghi quella giornata, perché resta, esatto, ovviamente. Devi fare la comba e chiudere tutto il cappelletto in brodo, capito? Boh. No, noi facevamo tutto, poi chi voleva una voleva l'altra, e invece lui poi piava e buttava tutto insieme. Pettuccina da cu che galleggiavano dentro al brodo i cappelletti, una cosa. Perché come dice il mio amico Riccardo, un fondo allo stomaco è buio. Ma in realtà lo fanno i giapponesi, i cinesi, perché non lo potevamo fare noi, insomma, tutto sommato. Poi ci ho ripensato dopo anni di distanza, no? C'era una versione nostrana del ramen che tutto sommato ci stava. E invece no, io volevo far notare questa cosa molto interessante relativa al decreto, insomma, del governo, perché prima diciamo che il governo imponeva delle regole generalizzate e generali, anzi più che generalizzate, e tutte le entità locali si incazzavano perché dicevano il governo despota de merda e via dicendo. In questo caso il governo dice fate un po' come cazzo vi pare, decidono le regioni. I sindaci, no? Le regioni. I sindaci, decidono i sindaci a seconda del il governo che i sindaci sono scarica barile, cioè fate pace col cervello. Io capisco la propaganda, no? Però è veramente, siamo arrivati a livello proprio dell'assurdo, cioè è proprio non mi tocca Peppe, non mi tocca, tocca a me Peppe che mamma non c'è, cioè una cosa proprio ma no, schizzoide proprio, cioè è la schizofrenia dell'attuale classe politica, perché il problema qual è? Tutti si vogliono lamentare per mettere in luce, in cattiva luce l'avversario, ma nessuno vuole responsabilità. E siccome che moglie è stata data la responsabilità, ma non la vuole più bene, esatto. Capito? Anche se la regione Lombardia questa sera chiede al governo coprifuoco totale dalle 23 alle 5. Però scusa, posso fare una riflessione? No, io pensavo, io mi sono un attimino messo nei panni del sindachetto del piccolo comune, della piccola città, no? Se arriva un'ordinanza nazionale che dice tutte le vie dello struscio, tutte le vie della movida devono essere chiuse alle 22, non te la puoi prendere col sindaco locale, è una manovra che è stata decisa più in alto di lui la rende soltanto esecutiva, ti puoi lamentare quanto ti pare, ma la finisce. Viceversa, diciamo, se in realtà dove il sindaco c'ha più contatto con la nuova cittadinanza, sì, però quello esatto. No, il discorso è questo: se invece il sindaco di Monterotondo domani dovesse dire c'è movida, da domani chiudiamo via Cavour, e quindi uccide la via dei locali, secondo me quello che gli va, quello va aspettare fuori dal palazzo comunale la mattina dopo, gli fa saltato incisivi, lo trova pure. Vabbè. È una sua responsabilità, se non faceva il sindaco, faceva la cazzo cosa. Infatti, il sindaco quando l'atti, quando fai l'assessore alla cosa inutile, cioè nel senso, no, ma il rischio, scusate, il rischio però esatto, il rischio però qual è? Che molti sindaci, io non voglio fare l'assessore delle cose inutili, non niente. Comunque, allora sì sono parzialmente d'accordo. È vero pure che, sì, esatto, è vero pure che comunque pure tutta sta propaganda del fatto che le aziende vengono penalizzate, ma saranno tutte supportate in manovra queste cose. Ragazzi, Conte ieri ha detto una cosa bruttissima, perché ha parlato di ristoro per gli imprenditori in difficoltà, che è una frase che secondo me è di un sibillino e di un, come dire, di un'infamità assurda. Poi, vabbè, che comunque è perché ci vedo un messaggio, come dire, l'occhiolino a Confindustria ci vedo. Ah, ok. Non riesco a vedere altro. Bonomi ieri si è lanciato in questa cosa dicendo che stanno ancora aspettando 80 miliardi di sussidi, che oddio, cioè io posso anche trovare giustificata la richiesta in virtù del ruolo, però calcolando che tipo una settimana prima aveva parlato di sussidistan, riferendosi all'Italia, per le forme di sostegno al reddito per diciamo così, i dipendenti per i comuni cittadini. Certo, perché quello non va bene. Tu devi, tu devi sostentare i grandi imprenditori, mica i cittadini, singoli cittadini. No, tu devi però secondo me comunque il discorso è che bisogna dare una botta alla botte. Una cerchio. Sì, alla moglie dell'oste, cioè, ubriaca, della moglie ubriaca, esatto. anche perché comunque, cioè, nel senso, anche noi come piccoli imprenditori, per esempio, alcune categorie comunque dei risarcimenti o parte dei risarcimenti o dei bonus anche sull'acquisto di nuovi materiali, il prestito garantito dallo Stato, comunque poi alla fine comunque diciamo un'incentivazione iniziale all'economia che poi probabilmente verrà poi reiterata nella prossima manovra finanziaria, perché comunque è stato promesso, poi vediamo, no? Questo è che comunque verranno fatte delle iniezioni all'interno del, sempre per il solito fatto, sempre che, meglio delle supposte, sempre, sì, appunto, sempre. Vabbè, che devi capire, muscolo indovina, per come dicevamo insomma prima del lockdown, anzi durante il lockdown, sperando insomma in una riflessione sistemica che poi alla fine non c'è mai stata e non ci sarà mai, anche se Conte ogni tanto lo continua a dire, cioè, dobbiamo ripensare il nostro sistema, però pensaci un altro po', non lo so. Cioè, e alla fine stiamo sempre qua, in compenso. Ragazzi, a sto punto io però approfitto, scusate se scendiamo un po', forse troppo sul serio, però io adesso approfitto della vostra presenza, perché io non riesco a decidermi su un fatto che secondo me è importante. C'è una netta divisione tra quelli che dicono che dovremmo accettare il MES e quelli che dicono assolutamente no. Ora, posto che il MES come è stato rimodulato oggi non è più quello che ovviamente ti rendeva un debitore dell'Unione Europea, ti fondamentalmente consegnava i tuoi testicoli all'Unione Europea, il nuovo MES, che tra l'altro è stato rimodulato anche per favorire l'investimento immediato nella sanità, secondo voi lo dovremmo accettare o no? Lo dovevamo accettare 2 mesi fa. Beh, Conte ci tiene a ribadire il fatto che comunque è un debito. Sì, però è il debito alle migliori condizioni che il mercato oggi ti mette a disposizione. Sì, sì, sì. Puoi usare in maniera più libera di prima e soprattutto non ti costringe a mettere le palle nel cassetto e chiudere il cassetto di scatto dopo, come era il MES precedente. Cioè, è chiaro che il MES come era stato creato in origine serviva solo ed esclusivamente per dire: ok, hai accettato il MES, praticamente hai dichiarato di essere uno stato fallito, adesso te becchi la troica, perché sostanzialmente il MES prima questo faceva. Oggi io lo vedo piuttosto differente, però mi rimane comunque la perplessità e la domanda. Ok, io lo percepisco come differente, anche un pochino più sicuro di prima, resta sicuramente un prestito oneroso, ma perché la Spagna, il Portogallo e altre aziende, senti a me, e altre nazioni che se la passano altrettanto male non stanno prendendo in considerazione di accettarlo? Che la Spagna e il Portogallo vogliono rinunciare anche ai recovery fund, per farti capire, insomma, quindi manco quello vogliono, quindi la domanda è perché. Esatto, è uno dei motivi che non mi permettono di farmi un'opinione definitiva sull'accettarlo o no. Poi quando penso che ad accettarlo in prima linea c'è Renzi, un po' mi preoccupa che allora forse la sola sotto c'è, però non la riesco a trovare. No, scusate, noi abbiamo avuto un'interruzione, attento che esce il gatto. Allora ragazzi, se volete ci prendiamo un attimo di pausa, perché io avrei anche un traileruccio da farvi ascoltare. Bravo. Allora facciamola così, ragazzi, io vi stacco il microfono, adesso stacco anche il mio, rifiatiamo l'ugola un paio di minuti perché vi facciamo ascoltare un messaggio importante da Runtime. Ragazzi, come vi dico sempre, la magia della radio sta proprio nel fatto che non ha confini. La radio, e mica abbiamo l'antenna. Non ci abbiamo antenna, ma che c'entra? Scusa, ma è lo spirito della radio di un tempo che teniamo in piedi noi. È vero, ci piace la radio, è proprio come i bei vecchi tempi. E poi ricordatevi che i podcast sono il futuro della radio. Bravo, e poi raga, è il sogno della mia vita. È il camper, ha la pace nel mondo, è il replicatore di sushi infinito. Ma quanti sogni hai, Simo? Troppi sogni, troppi. Cioè, voglio dire, ma tu devi immaginare le nostre voci che viaggiano nella notte, quando i ritmi sono più lenti, quando tutti parlano a bassa voce, cioè, meraviglioso. Eh sì, ci sta di notte. E poi in fondo, ragazzi, la mia voce è adatta alla notte. Sai a cosa è adatta la tua voce? A farti denunciare se chiami qualcuno di notte. Ma poi, che ci avevamo da dire di notte? Ma dai, in realtà riflettici bene, si può parlare di noi, degli altri, d'amore, d'amicizia, di esperienze, raccontare storie. Ah, e allora c'è il rischio che finisce tutto in merda. A Radio De Notte, sì sì, qualcosa mi dice che poi si finisce a parlare in merda. Runtime by Night. Ma non era meglio Runtime de Notte? Ogni mercoledì. No dai, mercoledì raga, in casino c'è la Champions. Ogni sabato. No, proprio sabato no, che c'è il torneo di Burraco Fisso, no. Una notte a caso ogni settimana. Vabbè, allora, famo sempre come ci pare. Quando ci pare a noi, a posto. Quando ci pare, ma dalle ore 23:30. Marrone, ma perché proprio così tardi? Sempre solo su... Runtime Radio. Runtime Radio. Uè, raga. Oh, ma dove siete? Ve ne siete già andati? Vabbè, dai, ci sentiamo in trasmissione. Runtime Radio! Ne famo un'altra. Ragazzi, ed eccoci qua. Devo dire, quasi con una certa, come dire, rabbia, che per questo trailer di Runtime di Notte, che adesso Simone e Francesco ci illustreranno meglio, ci hanno fregato praticamente la sigla di OGM. Diciamo, c'è stata l'ispirazione finale, ecco, diciamo così. È un autoplagio, cioè io posso dirvi una cosa, denunziatevi. Runtime denuncia se stesso. Esatto, sì, sì. Esatto, insomma. E comunque ritorna Runtime di Notte, ma una sera a caso durante la settimana, perché abbiamo pensato di... Infatti non lo saprete mai quando... Esatto, torna. Ve lo diremo solo dopo la puntata. Torna questa settimana, però dovete stare lì un po' appizzati, dovete andare sul canale Telegram di Runtime Radio, lì insomma quando verrà pubblicato durante l'arco della giornata, cioè, ragazzi, stasera c'è la puntata, insomma. Io adesso stavo facendo un ragionamento, stavo pensando di partecipare magari così anche en passant durante una puntata, però il bello di un programma del genere è farlo da sotto le coperte, quindi ve lo dico, io arrivo col microfono alla Marco Gualdi a un certo punto, poi rompo. Da biocchi però così. Sì, io mi abbiocco lo stesso, figurati. Oppure sono tocchi, un professionista. Addirittura, vabbè, quello potrebbe essere anche, come dire, un'attività piacevole visto il periodo, però insomma, così vediamo un po'. Io alle 23:30, il mio problema qual è? Che se non ho una cosa precisa da fare alle 23:30 sono già a dormire da un'oretta, sono proprio vecchio dentro. E comunque sì, insomma dai, questa settimana non so se è venerdì o sabato, perché in realtà mi sa che l'abbiamo stabilito, ma io non me lo ricordo. Francesco, tu no, non l'abbiamo stabilito. Non l'abbiamo stabilito. Che venerdì non può uno, sabato forse non può, non si è capito un cazzo. Ok, no, perché mi sa che in realtà Umberto può pure il sabato, quindi forse si fa sabato, però vediamo. Sono i festeggiamenti sabato, mi sa. Ma fate le domande che uno non sa rispondere in diretta come l'anno scorso? È sempre. Il fatto di non saperle rispondere non è una cosa oggettiva, ma soggettiva, quindi. Sì, quello è anche vero, assolutamente sì. Se non sei pronto a rispondere a domande. Io invece parlerei di Trump, ma prima di parlare di Trump faccio un ultimo collegamento, insomma, qui Genova da Verona, Verona-Genova, questa partita che è talmente, come posso dire, non lo so. Fabbri contro Maniscalchi praticamente. Diciamo, insomma, però c'è quell'agonismo, quella passione, quasi di calcio d'altri tempi. Veramente mi sta anche piacendo, tutto sommato. Tipo faccio una partita di Serie C, ma non perché li vogliamo sminuire, insomma, perché... No, non a quel livello lì. Secondo me è anche meglio della partita di Serie C, però come posso dire, un po' più arruffata, diciamo, è quell'arruffato però agonistico, quello che, capito, ci mettono tutte e due il cuore e quindi alla fine ragionano perché, poco, perché diciamo. Le gambe e la testa non ci sono, esatto, più, esatto, laddove non c'è la testa c'è il cuore, insomma, e vediamo come finisce, però ancora 0-0, è difficile sbloccare il risultato quando giochi in quel tipo di contesto, insomma. Vabbè, però dai, Non saremmo gemme se non parlassimo del nostro idolo politico, vero? Che è quello che è il capo del mondo. Per qualcuno è idolo davvero, poi ce ne parla male. Sì, esatto. È un dio. Esatto. E anche a sue spese, insomma. Sì, vabbè, ma lui comunque... Allora, innanzitutto cominciamo... Partiamo da questa. Trump, dai. Nostro amico Trump. Caro amico, perché ovviamente Trump. Praticamente... è andato in Nevada perché vabbè, sta facendo i suoi comizi eccetera eccetera, e ha detto praticamente che è stufo del Covid. Lui dice la gente è stanca del Covid, perché lui fa questi rally enormi, perché lui capito, cioè è proprio fatto già spontanea volontà andare in giro, perché non vorrebbe ma deve, è proprio un suo impegno morale. La gente vuole essere lasciata in pace, sono stanchi di sentire Fauci e tutti questi idioti. Attenzione, se l'avessi ascoltato a Fauci avremmo avuto 500.000 morti, capito? Secondo lui, perché Fauci così è facile, diceva, cosa guarda, che ha fatto lui di conservativo rispetto a Fauci per evitare 500.000 e fermarsi a 200.000? Esatto. Semplice. Ha fatto una, come cazzo voleva lui, dice Fauci è un tipo simpatico tutto sommato, perché no, dai, guarda, Fauci è un tipo simpatico, sta lì da 500 anni, è un simpaticone Trump. Ma la cosa bella, al di là di questa cosa che poi magari la commenta anche Francesco, è che voi lo sapete, insomma, in questo momento c'è la campagna elettorale negli Stati Uniti, e vabbè, a parte il primo dibattito, insomma, tra Biden e Trump, di cui abbiamo già parlato, poi c'è stata un'intervista singola praticamente a Trump da parte di sulla ABC, praticamente da parte di una giornalista che non ricordo mai come si chiama, perché c'è un nome. Shavanna. Che praticamente lei non solo l'ha incalzato fino alla morte, lui era in notevole difficoltà, perché Trump è buono a prendere il microfono e dire la prima bestemmia che gli viene in mente, cioè lui è così. Deve fare i monologhi con quattro vocaboli. Esatto, se no non c'è, è come Salvini, non ci devono avere interlocuzione, capito? Cioè devono dire cose come gli pare a loro. E la cosa bella è che a un certo punto questa, oltre che l'ha incalzato, gli ha proprio, cioè, secondo me ha detto una cosa che riassume il concetto proprio in una maniera tale, perché gli ha detto: tu sei il cazzo di presidente degli Stati Uniti, non sei lo zio scemo. Sì, cioè, che aveva postato per un post che aveva fatto falso, gli chiedo scusi, ma lei ha postato questa cosa falsa, che ritwitti le cose a caso, però, esatto, perché lui dice no, ma io non l'ho fatto, l'ho solo ritwittato, esatto, l'ho ritwittato, ha fatto sì, ma lei è il presidente degli Stati Uniti, non lo zio stupido di qualcuno, esatto, che ritwitta gratuito a caso, che poi no ce li ha dei nipoti, quindi è lo zio stupido di qualcuno. Di qualcuno sicuramente è lo zio stupido, cioè che questa cosa mi ha fatto anche un po' riflettere, perché ho visto, insomma, che in realtà i giornalisti in particolare si stanno molto accanendo, cioè, sia gli anchorman che comunque gli intervistatori stanno molto accanendo contro Trump, perché secondo me non ne possono più neanche quelli che lo sosterrebbero. La prima volta l'hanno diciamo approcciata con superficialità sta cosa, poi c'era il fattore social media che insomma aveva un po', come te posso dire, preso un po' tutti quanti in contropiede, e questa seconda volta secondo me un po' proprio esasperati dal fatto di avere un presidente che non solo sta a creare danni anche dal punto di vista internazionale, ma che comunque è veramente esasperante. Io ho visto proprio tutta intelligenza che si sta a stringere proprio contro, cioè regà, non, cioè famo in modo che questo non gliela possa fare, insomma, infatti sta abbastanza, ragazzi, dietro nei sondaggi. Trump ha detto che deve essere votato. Però farà la guerra l'ultimo giorno. Sì, Trump l'ha detto che deve essere votato, perché il rischio grave è che con Biden ci sarà il lockdown a Natale. A Natale cancellerà le feste. Cioè, il Grinch. Tipo il Grinch, esatto. Che poi veramente, cioè, le cose anche... Cioè, ha detto anche che la curva dei contagi sta diminuendo e presto tutto sarà risolto. Comunque, cioè, ragazzi, faccio notare che c'è proprio in questi ultimi giorni c'è la corsa alle armi da banco negli Stati Uniti, eh? Da pezzo veramente. Caso ma c'è stato un incremento ulteriore in questi ultimi giorni. Sì, però faceva notare, cioè c'era sul sito della CNN sta roba, che a quanto pare è un fenomeno che si ripete più o meno ad ogni elezione. Perché praticamente quasi sempre il repubblicano attacca il candidato democratico dicendo: se vince lui vi toglie le armi. Allora fammele comprare prima. In realtà guarda, io seguendo molti canali anche negli Stati Uniti, ogni crisi che possa essere paventata o reale, comunque è un motivo per andare anche quella dei mutui. Purtroppo questa è proprio la tendenza negli Stati Uniti. Addirittura, siccome che ok, tu puoi comprare l'arma, però per esempio non puoi comprare tutte le munizioni che vuoi, anche se stanno lì sul bancone, no? Cioè fanno vedere queste cose su Walmart, no? Dove ci sono i fagioli e maiale e fagioli, e poi al bancone dopo ci sono le munizioni 44 Magnum, no? E però tu non è che puoi comprare tutte le munizioni che ti pare, cioè non è che puoi comprare, tu puoi comprare 500 munizioni al giorno, e quindi al giorno significa io domani ritorno e me ne compro altre 500, dopodomani ritorno ancora e me ne compro altre 500. E nel uno degli ultimi video che ho visto qualche settimana fa c'erano tutti sti banconi delle munizioni che erano praticamente quasi tutti completamente mezzi vuoti, insomma, quindi vuol dire che non c'è neanche la abbastanza di carico rispetto a quanto la gente compra. Questa è proprio una tendenza tipica negli Stati Uniti, e poi dopo dice, ecco, per esempio noi, cioè nel senso, fortunatamente sto problema da un certo punto di vista non ce l'abbiamo, perché puoi anche essere la persona più abilitata, più come te posso dire, equilibrata del mondo, però avere comunque a portata di mano, questo lo diciamo sempre, comunque un'arma in un momento in cui te sciavatta il cervello, insomma, ragazzi, mi dai un gancio subito, però adesso, perché sabato pensavo a quello, sì, infatti. Sì, infatti, perché a parte concludo con Trump, perché ho appena visto un post di Twitter in cui The Hill scrive: Trump, Biden ascolterà gli scienziati se sarà eletto, e Biden che risponde a sto post con puntini, sì, semplicemente. E per me con questo sì, ha vinto tutto. Cioè sì, ma poi cioè, si è fatto pure autogol da solo. Che poi la campagna elettorale di Trump è: si sveglia la mattina e fa Biden gli puzza il culo, e così è tutti, vote, poi alla fine sempre vote. È uscito. No, ma il bello è che Trump, ci avete fatto caso, è riuscito ad accusare Biden per interposta persona, perché ovviamente poi gli scarica addosso quelle che sono le presunte frodi del figlio, paragonando la frode del figlio a Watergate come a Watergate, entità, sì, sì. E quando lui praticamente è un pluribancarottato, è uno che il giorno dopo, e lui l'ha detto sibilinamente, perché ha detto: se non dovessi vincere le elezioni potrei andare via dagli Stati Uniti. Non è che potresti andare via, è che potresti dover andare via, perché il giorno dopo che perdi l'immunità presidenziale ti arrestano 8 agenzie. Sarei curioso di sapere qual è il paese scelto da Trump per andarsene via, per esempio. Uno che non abbia l'estradizione con gli Stati Uniti, fortunatamente non l'Italia. Comunque parlavamo di armi, parlavamo di americani, Francesco invece c'ha la sua storia da raccontare. Vai. Sì, perché nella qui ridente, tranquilla Reggio Emilia, sabato sera si è trasformata in Reggio Emilia calibro 9. Reggio Emilia. Reggio Emilia, Reggio calibro 9, anzi calibro 6.35, perché l'arma che deteneva sto tal, una Beretta 6.35 millimetri. Esiste il 6.35, io non sono esperto di armi, non lo sapevo neanche. Ma neanche io, cioè. Semplicemente vedo quanto mi viene riportato. Ma è bello che non ho sentito, perché io ero in giro quella sera e per quella piazza ci sono passato una decina di minuti prima che accadesse tutto questo. Poi mentre ero da un'altra parte è arrivata la notizia: ma hanno sparato a Piazza del Monte, cioè che è la piazza più centrale di Reggio Emilia. Proprio se puoi fare tipo un compasso del perimetro di Reggio Emilia, tu la punta del compasso la metti proprio su questa piazza. E comunque sto tizio di 43 anni, così, un certo, sappiamo anche il nome, l'hanno acchiappato però durante la notte, un certo Gaetano Lombardi, nato ad Acerra, quindi campano. Beh, si chiama Gaetano, insomma. Eh sì, e ha sparato. Beh, Gaetano è ancora più del sud come nome, non è tanto campano, è più calabrese e siciliano Gaetano, comunque, Tano. Sì, e comunque così, per futili motivi, da quanto ha riportato stesso. Scusami, ci stai facendo notare che è concittadino di Di Maio, praticamente. Praticamente sì. È praticamente preso da chissà quale cosa, non lo so, ha sparato 9 colpi, ha ferito 5 persone, di cui praticamente 3 nordafricane e 2 marocchini. Uno abbastanza in condizione seria, però niente di letale. Non è assolutamente una cosa razzista, però insomma, c'è un caso. Non so che ha detto semplicemente che sono stati maleducati, che l'hanno trattato male e che lui ha reagito male, ha avuto una reazione eccessiva. Si è autoconfessato, perché comunque nel corso della notte si è anche dato una certa indulgenza. È uscito strillando: io stavo si è perdonato. Sì, ma la cosa bella è che quest'arma, l'arma sua, proviene, cioè è stata trafugata e stata rubata da un'abitazione a Reggio Calabria, quindi voglio capire. Era lo spirito dell'arma che ha agito, che ha influenzato il malcapitato, sai, è come... presente Christine la macchina infernale, ecco, in questo caso... È come Pasqualina Stormbringer. Addirittura come Stormbringer, mamma mia... Merli Bolleano, non ti ci facevo anche che poi io ho visto il video, cioè nel senso alla fine dalla frequenza degli spari ho pensato fosse un'arma automatica. In realtà io non so che tipo di arma sia, perché non conosco le armi in generale, però insomma Peppe, a proposito di questo, Peppe Rizzard ci dice: il calibro 6.35 esiste, praticamente lo mettevano come sorpresa nelle patatine. Ma infatti da quello ho sentito, praticamente poco più di tipo una scacciacani praticamente, esatto. Gli ha fatto soltanto, alla maggior parte dei malcapitati gli ha fatto solo il buchetto. Certo, poi se becchi il punto sbagliato puoi uccidere anche con quella, assolutamente, esatto. Becchi sul collo ma ammazzi, cioè. Certo. Esatto, però se no l'arma da borsetta o da calza a rete della spia della situazione, no? Della matata. Dice calza, ma che è calza? Ma comunque secondo me è stato, questi immigrati sono stati protetti dalla mano benevola del dio Trump, probabilmente. Beh, anche quello che Trump ha sparato era immigrato. Non protegge i neri, scusa. Come no? Ma scusa, cioè, se in India c'è un certo Bussa Krishna, che praticamente c'era stato di Trump, che lo venera come un dio, come una divinità, come Krishna, appunto, come un dio, e praticamente ogni giorno lo prega, perché non Trump non dovrebbe proteggere la gente di colore? Non capisco, cioè, è così buono con gli afroamericani, Trump, è così indulgente. Comunque, la sai la storia di quest'indiano, vero? No, racconta. Non lo venera più, mi risulta, giusto Marco? No, lui continua. Continua a farlo, lui continua a farlo, ma in un altro modo, in un altro mondo. Ma in un'altra dimensione. Praticamente ha cominciato a fare un digiuno da quando Trump ha annunciato di stare male col Covid, e lui ha cominciato appunto questo digiuno invocando tutti quanti i suoi follower che lo seguivano sui social a pregare per riprendersi, sì, per farlo riprendere. Sì, ma poi gli deve essere saltato internet, non gli hanno detto che Trump nel frattempo è guarito. Quando Trump ha detto che praticamente si stava riprendendo, l'11 ottobre lui è stirato, è morto. Ma succede, cioè, ragazzi. Cioè, non gli era arrivata la notizia. No, però... Non ha fatto lo sciopero della fame come lo fanno i radicali, lo ha fatto in maniera un po' troppo, come dire, radicale. Esatto. Della fame, lo stai facendo male, insomma. Ma era della fame o della fame e della sete? Perché io so che se bevi, insomma, prima di morire di fame ce ne vuole. Poi, era solo fame. Immagino che insomma in India magari il livello di nutrizione non sia esattamente il nostro. Però insomma, morire solo di fame ce ne vuole, non basta. Ma ricordate, sembra un attacco cardiaco. A proposito di divinazione di Trump, ma ricordate quella donna in un paese arabo, adesso non ricordo, mi pare proprio l'Iran addirittura, che praticamente aveva dato il nome del figlio Trump, l'aveva chiamato Trump. Oh mamma mia. E chiaramente questa c'ha avuto non so quanti problemi, che alla fine non so se... Non mi pare una mossa furba in Iran, insomma. Cambia posto, addirittura gli hanno dovuto cambiare nome o roba del genere. Questa alla fine aveva chiamato il figlio, che ne so, menti che faceva Mustafi di cognome. Questo si chiama Trump Mustafi. Secondo me a questa come minimo gli hanno strappato i pollici opponibili. Secondo me era successo qualcosa, però adesso me la ricordo troppo vagamente la notizia, quindi non te so dire. Un po' te la sei cercato. Sì, te la sei andata a cercare. Vabbè, ragazzi, insomma, ma invece... Torniamo un attimo, facciamo una chiosa e ritorniamo al concetto di Covid, di misure, eccetera. Prima del decreto... Attenzione, controvia del Genoa, attenzione, davanti al portiere... No, si è defilato, scusate. Dicevo, a proposito di tutte queste misure, mi ha fatto un po' ridere, ma anche riflettere in maniera veramente amara sulla spregevolezza dell'italica razza, perché prima del nuovo... decreto del Presidente del Consiglio c'era stata già un'ordinanza che cercava di ridurre la movida notturna, e c'è stato questo genio di barista, di cornettaro, di Catanzaro, che cosa ha fatto? Ha interpretato alla lettera l'ordinanza, ha chiuso il locale a mezzanotte, alle 00:15 lo ha riaperto, e quando i vigili urbani sono arrivati a contestargli questa apertura, le ho detto: scusate, ma nell'ordinanza non c'è un orario minimo della riapertura, io non sto facendo nessun illecito, potevo aprire a mezzanotte 01, ho aperto a mezzanotte 15. E i vigili urbani se ne sono dovuti andare sconfitti e con la coda tra le gambe, perché effettivamente lui ha sfruttato questo vulnus, questa disattenzione in chi ha scritto l'ordinanza. Credo che ci sia comunque adesso, fino alle 5 adesso è stata aggiunta, perché ovviamente, come dire, in Italia fatta la legge, scovato l'arcano. Però posso dire una cosa, sei una merda. Ah, esatto, io questo volevo arrivare. Non è stato Simone, l'unico, questo è capito. Fatto, Il punto non è che tu hai il coraggio di dire: ma io ho agito nel rispetto della legge, perché ha detto pure che l'avrebbe rifatto, quindi... Sì, ho capito, ma il senso civico dell'ordinanza lo vuoi capire? Non è che ti stiamo dicendo che devi stare chiuso da mezzanotte alle 6 perché non ti voglio far vendere i cornetti, perché mi stai sul cazzo, voglio che compri quelli surgelati al supermercato. Ti sto dicendo che c'è bisogno di evitare, di impedire alla gente di andare in giro, e per impedirlo gli devo anche togliere i motivi per andare in giro. Che me cioè, il senso civico zero. Ognuno pensa solo ai fottuti cazzi suoi. E questa cosa se ne ammenda, e poi tantissimo. Tra l'altro, intervistato in radio, ha detto pure che lo rifaceva. Certo, finché può lo rifà, fino a che non cambia la legge lo rifà. Allora, no. Poi la mia domanda io è, però se fossi stato io se fossi stato nei vigili, comunque la multa gliela avrei fatta uguale. Poi dopo ma contesti, cioè nel senso, cioè comunque ti devo rompere il cazzo, te lo romperei comunque. A me quello che dà fastidio a maggior ragione è il fatto che lui ha aperto, tanta gente che invece di indignarsi magari è andata lì e il cornetto se l'è comprato, e ha detto: ah, sei più figo te, hai fatto bene. Cioè c'è un problema di menefreghismo di fondo nella gente nell'affrontare sia la pandemia che tutti i problemi derivati, perché ognuno di noi guarda solo il problema che impatta specificamente su di lui. Quindi se io sono uno che viene danneggiato dalla crisi economica ma non ho particolari rischi da un punto di vista sanitario, perché magari non vivo da solo, non ho anziani a casa eccetera, mi preoccuperò di dire: no, tu non mi devi chiudere dentro, non mi devi impedire di fare la mia vita, anzi mi devi far lavorare perché sennò moro di fame. Viceversa, quello che nella stessa condizione però magari c'ha il nonno a casa, quattro bambini che vanno a scuola eccetera, dice: sì, un attimo, io se non lavoro mi moro di fame domani, però se vado troppo in giro magari i ragazzini mi morono oggi. Quindi fondamentalmente ognuno usa come unico metro se stesso, c'ho questa impressione. Quello che non tutti genero, è chiaro, però certo. Quantità di persone troppo alte ha questo tipo d'approccio, certo. E questa cosa è amareggiante, perché per i primi mesi della pandemia sembrava quasi che fossimo un popolo con un senso civico, anche con un'umanità. Cioè. Andrà tutto bene, ce la faremo, e cantungere. Diciamo gli infermieri sono eroi, se siamo già scordati il fulcro tutto. Del problema, secondo me, esce fuori la parte più, come posso dire, più... diciamo collettiva, no? Nell'andare poi alla fine ad analizzare le singolarità e magari le cose più in una normalizzazione del problema, vero? Alla fine esce fuori comunque anche lo stronzo, insomma. Secondo me perché all'inizio il sacrificio non è reale, perché tutti ci possiamo permettere di stare qualche settimana magari a casa senza lavorare in linea di massima. Tutti, no? Questo non lo so, io non mi sbilancierei. No, tutti no, però allora, io quando lo dico, non sono uno che c'ha il lavoro dipendente, che c'ha il reddito fisso, io sono un autonomo con un reddito che mi devo conquistare giorno per giorno, quindi fondamentalmente se non lavoro non mangio, sono un autonomo. Quindi, a maggior ragione, se dico questa cosa, non è perché tanto a me lo stipendio mi arriva a fine mese anche se sto a casa, non è assolutamente così, quindi questo per sottolinearlo un po' in linea generale. Però mi rendo conto che all'inizio uno rimbocca le maniche, mangia pane e cipolla, il problema in qualche modo lo gestisce, e lì subentra inizialmente la fase che diceva Simone, quello del tutti uniti sotto la stessa bandiera contro il nemico comune. A un certo punto però scatta quella cosa che da quel momento in poi tu stai avendo un problema preciso, specifico, e a te specificamente come dire impattante, allora da quel momento in poi te ne fotti degli altri. Sì, no, diciamo che secondo me invece è più una questione che nell'insieme, diciamo, se vede un po' la cupola, la parte un po' più superficiale, che è quella magari più positiva, che cerca di unirsi. Poi se vai a vedere nello specifico, nella sottorete, diciamo così, alla fine c'è, perché questo anche nel lockdown c'era, che se nascondevano dentro al coso, quelli che si prendevano i cani randaggi per far finta. Beh, esatto, oppure se nascondevano dentro il portabagagli o cose del genere, cioè nel senso tutte quelle cose il veramente insensate, quello che cerca sempre di deludere la regola, quello lo trovi sempre, però in proporzione erano molti meno. Sì, vabbè, diciamo che era un lockdown generale, era più diciamo che forse noi raccontavamo magari più la cosa positiva, poi alla fine andavi a vedere c'erano comunque 1.500, 2.000, 3.000 magari sanzioni al giorno, quindi vuol dire che poi alla fine come quello che si faceva l'autocertificazione perché doveva andare a scopare con l'amante nel comune limitrofo, non so, ne abbiamo raccontata di ogni in quelle sì appunto, quindi cioè non è questo, insomma, secondo me i più belli rimangono quel gruppo di vecchietti nel in un paese lombardo che andavano a giocare nel bosco vicino, li hanno sgamati perché li sentivano bestemmiare. Beh, ragazzi, grande cosa. E comunque, che poi voglio dire, alla fine oggi pure è uscito fuori il fatto che giustamente dice, vabbè, comunque quello che paghiamo oggi è colpa dell'estate sconsiderata, ma noi l'abbiamo detto tutta st'estate, quindi cioè, sì, insomma. Però vedi, anche lì, Simone, io ne parlavo prima della diretta con Carmine su Skype, e io mi sono domandato, però a me c'è una cosa che non torna, e cioè sì, è vero, l'estate è stata abbastanza sconsiderata e superficiale, però si è creato una sorta di periodo cuscinetto tra quando sono finite le vacanze più o meno per la maggior parte delle persone e quando la curva si è impennata veramente, perché tutto sommato diciamo che le vacanze, il periodo critico delle vacanze estive è agosto, le prime tre, per qualcuno l'ultima settimana, quindi in teoria gli effetti devastanti del ritorno alle vacanze noi li avremmo dovuti percepire, malgrado ci sia insomma una finestra, un trend di 2 settimane, a partire diciamo così dai primi di settembre, da metà settembre, ma in realtà la progressione per quasi per tutto settembre è stata tranquilla, l'impennata c'è stata dopo un certo periodo di tempo, e quindi il dato che questa cosa sia da ricondurre esattamente ai comportamenti estivi non è detto, magari conta anche il clima, il fatto che torniamo a chiuderci in casa di più, comincia a fare freddo, cominciano a sommarsi anche i malanni di stagione, perché abbiamo avuto poi un ottobre abbastanza piovoso. No, ma non parlavo di aspetta, però non volevo fare un collegamento diretto sulla curva. Io dico che comunque il comportamento, diciamo, scriteriato, come se fossimo stati, che ne so, in prigione per 3 anni, ha dato comunque adito al fatto, come posso dire, un approccio più superficiale anche nel seguito, perché comunque diciamo, vedi, siamo stati tutti appiccicati, siamo tutti abbracciati, non è successo niente, quindi alla fine continuiamo a fare quello che cazzo ci pare, no? Beh, e da io lì nel sono frattempo poi al billionaire cascavano come mosche, quindi che non fosse successo niente era molto relativo. Lo so, però la gente se non lo vede intorno a sé, secondo me c'è una percezione diversa della cosa. Yeah, io per esempio so perfettamente, perché ieri mi è stato mandato delle foto da un mio amico che lavorava in un locale del nord, non dico altro perché sennò magari gli creo magari qualche problema, anche se è impossibile che qualcuno lo venga a sapere. Vabbè. E questo locale del nord, che è un posto dove hanno pagato a caro prezzo questo tipo di cose, gli stavano a fare dei trenini senza mascherina, quindi raga, cioè di che cazzo stiamo a parlare? Vabbè, quest'estate, cioè, ragazzi, in qualunque locale d'Italia il concetto che dicevano durante le feste, diciamo, da ballo, in discoteca, i vari animatori, la cosa che dicevano a tutti era fate quello che cazzo che vi pare, basta che non fate i video. Ci sono tante testimonianze, anche poi video di questa cosa, perché poi quello che fa il video lo mette in live su Facebook, ce puoi contare che lo troverai sempre, di conseguenza così. E poi nella riflessione che stavamo facendo, io ovviamente continuo a farmi domande per cercare di darmi delle risposte che non riesco a darmi, no? E però no, insomma, no, non te ne fare domande, no? No, ma più che altro sentiamo, che ne so, pure Puccio e Francesco, che non hanno parlato mai. Marco, dite qualcosa anche voi, insomma. Ma io non mi faccio. Se no, parliamo sempre io e Walter. Io sono stufito, dovrei parlare di quell'argomento lì. E io adesso volevo dire proprio questo, così ci riposiamo un attimino. Solo a Francesco gliene frega niente di quell'argomento. Vabbè, ho capito, è entrato nel gruppo, mo se la becca, non è che può. Quindi permettetemi di mettere quella sigletta lì. guarda Marco, ti ho staccato il microfono, sappilo, perché no ragazzi, vabbè allora facciamo così, vi riattacco il microfono così lo dite, forza, lamentatevi. Beh, non lo so, faccia i cornetti, che schifo, schifo questa conduzione. Che parte la sigla. Ah, c'è la sigla. Ah. C'è la sigla. Io non sento niente. Vi io la sento. Che c'è. Senti che fusa che fa. Senti. Mamma mia, sì. Qual è? Gamera o Gozzi? È Gamera che adesso è un po' di tempo che non riesce più a sta spiccicata. Cioè devi venire a cercare il miagola fino a che non la prendo in braccio. Io sarei contento che il gatto mio fosse così affettivo. Sì, però dopo un po' di coglioni, capito? Vabbè, cioè, ragazzi, entriamo, ragazzi, la sigla è tornata, non soltanto la sigla, perché venerdì scorso abbiamo avuto il piacere di vedere il primo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery su Netflix, vero? Allora, sì, vero. Grande Francesco, il tuo contributo sarà assolutamente come quando parliamo di anni 80 con Gusella, uguale, immagino, insomma il livello è quello. Vabbè, lui ha studiato a scuola Gusella, che ma si hanno notizie del poro Gusella, io non so. Vabbè, comunque ne parliamo in un altro momento, perché questo fattura, produce il poro Gusella, produce, fa pill, fattura bene, po la fanfara. Ancora la sigla? La fanfara. Tra l'altro mi hai fatto entrare il ducking proprio col colpo di tosse sul fanfarone, ma non fa niente. Allora, premessa, ne parliamo poco, anche perché probabilmente molti che ascolteranno non hanno ancora visto. E poi effettivamente non c'è ancora tantissimo da dire, anche perché l'episodio che introduce la nuova stagione è un episodio doppio, ne abbiamo visto solo metà. Sì, dico subito la mia, così almeno, cioè, diciamo, visivamente carino. Diciamo che è iniziata una stagione in una serie dove in teoria probabilmente potremmo lamentarci di meno, perché tutto quello che viene raccontato in questa serie qua è tutto terreno inesplorato, quindi alla fine possono di tutto e il contrario di tutto. Sì, si sono lanciati mille anni avanti, non c'è un pregresso, non c'è una timeline a cui attaccarsi, quindi io c'è sempre una cosa, ragazzi, che a me mi sconvolge in generale quando vedo i film di fantascienza, è quella che io e Marco Guardi chiamiamo la sindrome dello Stormtrooper, no? Cioè che sbagliano la mira. Cioè che la gente spara, cioè, ma tu vedi sparano, ma non per sparano due colpi, capito? Fiotte di raggi laser dappertutto, e non ce ne fosse uno che aperto, poi, tra ma poi c'è ma poi Simone, ieri... ma questo non succede solo nella fantascienza, succede anche nei film d'azione dove non c'è neanche il pretesto dell'arma laser che non si scarica, nei film d'azione alla Bruce Willis, alla Rambo eccetera. Sì, però nel film di fantascienza sta cosa beccano lo stesso. Nel film di fantascienza questa cosa si nota di più, perché c'è c'è un'inquadratura a un certo punto in campo largo dall'alto, quindi inquadratura tipo del drone, con questi cinque persone che inseguono due persone e sparano ovunque. Capite? Si vedono sti raggi ovunque, sparano a destra, a sinistra, poi, tranne che dove devono sparare, c'è una cosa. Poi basterebbe semplicemente fermarsi e prendere la mira. Anche c'è un'arma laser. Ragazzi, esatto, per me la scena emblematica, che tra l'altro mi ha anche un po' ferito per l'affetto che nutro in lei, è quando arriva 7 di 9 con i due blaster laser in una delle puntate di Picard, e lì per lì la scena alla velocità normale ci fai caso molto relativamente, ma se poi la vedi al rallentatore, l'attrice ha in mano questi due blaster praticamente uno a 45 gradi e l'altro a 175, quindi praticamente spara alle farfalle proprio da un punto di vista della posa durante l'uso dell'arma. È quello che fanno tutti. Ci sarà un maestro, ho capito, ma ci sarà un cacchio di maestro d'armi che ti dice che posa tenere durante l'inquadratura, voglio sperare. Non è esattamente, sì, ma lei dice tanto l'inquadratura mi stanno a guardare le zinne, quindi comunque io fermi tutti, perché io capisco il personaggio, capisco ma perché Sbano si dovrebbe vedere la scena al rallentatore. Io, esatto, vorrei capire questa cosa. No, ho paura. La scena al rallentatore. Attenzione! Non lo voglio sapere. Fotogrammi, cioè dei fermi immagine, e si vedeva. Peppe Rizzard, però, ragazzi, ci fa una domanda che non possiamo sottovalutare. Nella scena dell'inseguimento, se non c'erano tutine rosse, chi doveva morire? È negro, questo è vero, è nero però sono tutti e due neri. Attenzione, ragazzi, ecco, io devo fare una lamentela. Devo fare una lamentela razziale, perché nel primo episodio della terza stagione di Voyager ci sono due necri e un intiano. Non ci sono bianchi, ci sono blu, ci sono gialli, ma non ci sono bianchi. No, gialli, verdi, no gialli. Verdi, sì, vabbè, verdi, sì. Però insomma, non ci sono italiani. Questa cosa è vergognosa. Non ci sono toscani. Non ci sono italiani. I toscani hanno rovinato il cinema. Però insomma, sì, abbiamo visto l'uomo indiano stato questo paese. Prima pregava Trump, che poi è diventato il baluardo della federazione. Esatto. Ecco, la cosa simbolica carina di questo episodio è che questa immagine è molto ricorrente nella letteratura anglosassone in generale, perché a loro gli piace questa cosa del baluardo, dell'ultimo guardiano, del guardiano del faro, no? Dell'uomo solitario che da solo regge. Sì, il giapponese nell'avamposto che non sa che la guerra è finita, praticamente. A loro gli piace questa immagine. Ci è sempre piaciuta e devo dire che insomma stavolta ci hanno messo Gupta per fare i moderni, dal trail, insomma, che alla fine quel personaggio fa quello avrebbe fatto, anche se c'è un momento in cui insomma, diciamo, come posso dire, il didascalismo, diciamo, raggiunge dei livelli improponibili, perché il tizio gli dice a Barnum: guarda, io non sono veramente un ufficiale della federazione, quindi per issare la bandiera ci vuole un vero ufficiale della federazione, perché altrimenti la bandiera si incazza e gli spara, cioè, nel senso... No, vabbè, era per un discorso proprio di rispetto smodato nel protocollo, sì, credeva, sì, così, vabbè, tanto. Sì, vabbè, questo ha tenuto per 40 anni dentro una valigia una bandiera perché lui non la poteva issare, cioè mi sembra, capito? Per 40 anni soprattutto non ha scopato. Esatto, tra l'altro lui per 40 anni dormiva, mangiava, cagava e pisciava senza che... E però poi alla fine, quando cercano la nave, lui dice... A 150-200 anni dalla fine della federazione, io vedo tre navi della federazione. Due navi, quello che è, insomma. Navi, io adesso sono curioso di sapere che cazzo sono queste navi della federazione, che con la federazione non esiste. Insomma, chissà se le incontreranno. Diciamo che è rimasta frammentata e non è che proprio non esista. Ci sono i rimasugli, esatto. Sono quelli che da noi chiameremo i reazionari, quindi tutto sommato assumono anche una connotazione quasi negativa, cioè nel senso, sono quasi in un ordine nuovo. No, i restauratori. Beh, appunto, avrebbe il suo fascino una trama di questo tipo. Poi bisogna appunto capire quali navi se sono navi di che epoca rispetto a quel presente. Se sono navi di quel presente, vabbè, equipaggi che nessuno conosce, navi che nessuno conosce. Poi bisogna insomma capire, perché insomma ci hanno introdotto dei temi abbastanza particolari. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Dovremmo capire. Ma niente, però. Niente. Però no, invece, per esempio, ecco, la prima cosa che mi sono domandato. Io inizialmente credevo, insomma, che il luogo, il tempo in cui Bormann veniva catapultata sarebbe stato più di frontiera ancora. Cioè, mi aspettavo quasi un futuro in cui per alcuni motivi la vita umana fosse ridotta talmente tanto al lumicino che quando poi il protagonista maschile che troviamo sul pianeta vede una donna, ha detto la prima cosa che fa la stupra. Invece devo dire che però un mondo prolifico è solo che non c'è, è un ordine nel quale non c'è la federazione, insomma, abbiamo poi, guardando e riguardando, dovuto sfatare una nostra parziale convinzione secondo cui il nuovo personaggio introdotto in questa stagione fosse lo stesso che appariva in Calypso, uno degli short track. E invece non è così, invece è un altro, no, è un altro personaggio, se siamo fatti abbagliare dal fatto che era un necro, esatto, vedi, siamo proprio, però insomma siamo assolutamente coerenti con la nostra con la nostra visione delle cose, né? Insomma, siamo stereotipali, diciamo così. Vabbè, comunque, non, giudizio sospeso perché era solo la prima parte del primo episodio, ma finora, insomma, dandogli, non dico un voto, però insomma, così sinteticamente, vi è piaciuto o no, Marco? Sì. Sinteticamente sì. No, sì, dici qualcosa, Marco. No, non c'ho molto da aggiungere. Diciamo che oramai noi ci approcciamo a queste serie sempre con l'occhio critico. Allora, no? Io la domanda è: chissà quale sarà la quest principale di questa, cioè, a parte riunirsi, perché sì, secondo me pure l'incidente dell'esplosione di litio. Attenzione, spoiler, non dire troppo. L'esplosione del litio, secondo me pure quella assumerà un importante valore. E poi le guerre temporali sono venute prima o dopo le guerre fredde temporali? Dopo, per forza. O prima? No, prima non può essere. Vabbè, a parte tu dici che sono guerre temporali, quindi possono essere Per quanto riguarda invece il grande fuoco, The Burn, c'è una teoria. Ho letto una teoria che si ricollega a una puntata dei Voyager. Quindi, se qualcuno già più o meno ha capito, se qualcuno ha già capito, se non ha capito, ha capito Francesco, che poi ci farà il riassunto. Aspetta, c'è il gatto che dice che ha capito. Ragazzi, invece, io volevo fare una domanda più tecnica. Ma avete presente la navetta che c'ha lui? Adesso non ricordo. Ah, no, io pure ho una domanda dopo. La navetta del protagonista maschio, che adesso mi sfugge il nome, no? Del nuovo personaggio che viene introdotto. Book. Di Book. Come, cioè, ha una forma banana, come cazzo? Sì, cioè, è un po' strana. Come se guarda? No, io invece, la domanda che faccio io è. E considerando che siamo mille anni nel futuro, questo va a trans sminchiatura, va super, pure super nel stra... futuro, e che palle, esatto, cioè, esatto. Va in cavitazione, poi visto, cioè, va in transcavitazione, no, perché una volta era pericolosissimo, poi è diventata no, adesso è diventato di... Allora mi spiegate perché quando quello sta comunque a viaggiare a sta cazzo di velocità che adesso non so come si chiama, smodata, andava zigozago. Mi spiegate perché andava zigozago, ho capito questa cosa, perché andava Zigozago, scusate, forse perché stava così Zigozago. Veloce è come la teoria della curvatura 10, se la raggiungessi occuperesti tutti i punti nello spazio contemporaneamente, probabilmente una via di mezzo appare e scompare da più punti dello spazio perché va a velocità smodata e la forma boomerang causa questo effetto, non lo so. Tutta scienza, comunque io con questo chiuderei. Sì, ragazzi, che vi devo dire? Tanto effettivamente sì. Siamo arrivati ai nostri 90 minuti di programma, per cui che vi devo dire? Facciamo così, dai, togliamoci dall'imbarazzo. Pizzi, ci vuoi regalare tu il tuo outro? Francesco e Puccio vogliono chiudere con qualche cosa, gli diamo un attimo 10 minuti e poi chiudiamo, insomma. Anche mi trovi impreparato, però preparato, ok. Fai Puccio ce l'hai tu. Tu ce l'hai, Puccio, la notizia. Ma non so se il caso. Comunque, una cosa che mi ha fatto molto ridere, che è venuta fuori un paio di giorni fa. Voi sapete che noi viviamo nell'epoca dell'Internet of Things, dove gli oggetti sono connessi a internet e amplificano le loro funzioni, quindi era destino che si fanno i cazzi nostri, tipo giocare ai videogiochi tramite il frigorifero, dice. Sì, ad esempio, come abbiamo potuto ammirare in una puntata di una sitcom di cui vi parlerò in un'altra occasione. Dicevo, era ovvio che questa cosa prima o poi doveva arrivare ai sex toys. Che sappiamo tutti, abbiamo visto in pubblicità che c'è gente che c'ha il vibratore col controllo da remoto con l'app, ce ne sono vari. Non tutti però funzionano pare come dovrebbero. C'è un caso che in questi giorni è saltato all'onore delle cronache, delle cinture di castità maschili controllate con l'app. Boh, lasciamo perdere il desiderio di infilare il proprio arnese in una gabbia controllata dalla tua compagna che c'ha un'app sul cellulare. Il problema non è tanto questo, perché dove c'è poi gusto, igienico, per carità. Sì, soprattutto. Dove c'è gusto. Io alzo le mani, mi arrendo, va bene tutto. Il problema è che a un certo punto il server che controllava l'app e quindi i lucchetti di tutte queste cinture di castità è andato down. Non hanno pagato AWS. No, era ovviamente questa roba era venduta da una ditta. Pure quello. Esatto, era fatto un Joomla, era fatto con Movable Type. Allora è successo che tutti questi device si sono bloccati. Scusami, era lo stesso server di Rousseau, perché giustamente Casaleggio deve steccare le spese. Esatto, quindi 1,2 milioni serviva anche per quello. È successo che il server non riusciva più a comunicare con i dispositivi e quindi diverse migliaia di persone si sono trovate col pisello coibentato in questo arnese. Non sappiamo esattamente come è andata a finire. Si sa che la ditta che produceva l'app ha smesso di rispondere alle chiamate degli utenti, hanno chiuso qualsiasi forma di comunicaz└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└└└││└└└└└││└└└││└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└└└││││││└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ macello perché devono pisciare praticamente. Esatto. Tutti quindi, a chiamare i pompieri per farsi liberare. Cosa è successo? Cioè, com'è finita poi? Ma non è chiaro. No, documentiamoci su questa cosa. Scusate. In pratica il problema è stato risolto da alcuni con il fatto che hanno tipo cortocircuitato il motorino. Hanno fatto un web server in locale. Ah no, ok. Vabbè, oddio, l'avrei fatto. Però avrei dovuto avere. Vabbè, si poteva risolvere. In realtà a volte hanno tipo con le tenaglie, quindi anche insomma con un certo quale rischio. Con per le tenaglie tagliato cosa però? Quel problema. Quindi, tanto diciamo, ci sono stati degli incidenti. Di castità, sì. Te lo meriti, fatto di... Sì. Sì, sei un coglione, sì. Comunque... Quindi la prossima volta che comprate un sex toys controllato via app, pensateci un attimo. Vabbè, questo vabbè, poi ci sarebbe da fare un'analisi anche seria da un punto di vista di proprio antropologico, dell'esagerazione dell'inserire l'intelligenza nei dispositivi. A un certo punto basta, ragazzi, veramente a un certo punto basta. Però vabbè, Pizzi, vuoi fare tu i saluti di fine serata, visto che quelli di inizio serata li ho fatti io? Sì, accomodati intanto a salutare quelli in chat, così almeno tanto salutiamo anche loro. E allora salutiamo Pier G, Leo Vargeon, Cuciniere e Peppe Rizzard, che ci hanno fatto compagnia numerosissimi, in più tutti i soliti pavidi che si vergognano di ammettere che ci stanno ascoltando. Sono 1.200.000. Esatto. Sempre quelli, insomma. Bene, detto questo, ragazzi, ricordatevi che questa è la settimana che ritorna Runtime by Night con me, Francesco, Morris e Umberto come gruppo principale, poi ovviamente a rotazione tutti quelli che vogliono partecipare. Ricordatevi anche vengo anch'io, almeno una. Grande. Dai, insomma, perché poi sai che... Tra l'altro voglio raccontare un aneddoto. L'altro giorno, l'altra mattina anzi, perché voi sapete che Leo Vargeon il martedì e il giovedì fa una trasmissione in diretta la mattina alle 7:20 e ha passato il trailer, ovviamente, che è lo stesso trailer che Walter ha passato precedentemente, e proprio quando a un certo punto Morris va alla battuta "ma qui si finisce a parlare di merda", in chat è apparso Zio Mischi. Allora questa è una cosa che sanno in pochi, però ogni volta che noi facciamo Runtime by Night, che insomma parlavamo di tutto, delle cose, poi a un certo punto si finiva che si parlava di cacca, insomma, ed era sempre il momento in cui appariva Zio Mischi. E allora lui dice, sta la leggenda che praticamente lui diceva "ma è possibile che ogni volta che si parla di merda esco fuori io?" E la stessa cosa è successa l'altra mattina. Allora non può essere un caso, insomma, c'è qualcosa, lo chiameremo Adam Cacadmon d'ora in poi. Esatto. Vabbè. Bene, allora io ringrazio e saluto Carmine Puccio Console. Ciao. Dovremmo fare una puntata di videoludica prima o poi. Adesso ci... Ma la settimana prossima c'ho anche 2 o 3 argomenti. Va? Ok, perfetto. Salutiamo Lobby Frontali. Salve. Comunque, notizia dell'ultima ora. A Rimini, questo l'ha annunciato il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, un disoccupato ha trovato uno zaino con 7.000 euro e l'ha riconsegnato al proprietario, che è un imprenditore, che l'ha ringraziato con una lauta mancia. Un onesto imprenditore con 7.000 euro di contanti in sacco. Esatto. Vabbè. Deve essere veramente onesto, sì. Io non era una ricompensa, io considerando che insomma ci compravo metà camper con quei 7.000 euro, quindi però vabbè, non voglio incitare, però col motore, certo, possibilmente. Esatto, non voglio comunque, secondo me non gli è dato abbastanza, per questo ha parlato anche, cioè, secondo me vabbè. Salutiamo e ringraziamo anche Marco Gualdi. Ciao, da quello da fra un po', okay. Un attimo, che adesso subito con la sigla. Esatto, anticipi sempre tutto. E prima di salutare ovviamente colui che ha fatto sia la diretta, la regia, che ovviamente la conduzione, voglio dire che praticamente è finita la partita tra Verona e Genova. Una partita che è stata divertente, anche tutto sommato, mi è piaciuto, è quasi finita, ma sono 0-0, penso insomma che difficilmente succederà qualcosa nei prossimi secondi, e quindi io ringrazio e saluto Walter Sbano. Io vi saluto, vi ringrazio a mia volta, mi scuso per la settimana scorsa, chi ascolterà in differita lo scorso episodio si renderà conto che manca il mio parlato del primo quarto d'ora, malgrado fossi io a fare la regia. Ne è successa di ogni, lo spiegavo nella prediretta prima, avendo dovuto rifare il computer eccetera, far funzionare Spreaker su Windows è un po' una cosa non solo barocca ma anche sciamanica. Questa volta ha funzionato tutto, vi garantisco insomma che potrete ascoltare la puntata per intero, e quindi ancora una volta grazie, un saluto a tutti, buonanotte, e chiudo: se questi fanno Runtime de notte, io farò una volta di queste Runtime de pomeriggio, perché a me de notte mi piace dormire. Ciao! Ciao! Ciao.